Melog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi in tutta Italia piove. Oggi piove e l'Italia continua a cadere dalle nuvole. Non è del tutto peregrino e casuale il fatto che oggi, una giornata di fine maggio, piova. Piova come se fosse novembre, già l'avevo detto ieri, oggi è ancora peggio. Oggi ero uscito coperto dei miei vestimenti leggeri e sono arrivato alla radio fradicio. Date un senso a questa giornata di pioggia. Cos'è che piove oggi? Perché piove? Si diceva una volta piove, governo ladro, ma ci sono altre tante accezioni che attribuiscono un senso profondo e sibillino al fatto che piova. Che piova poi fuori stagione, che piova poi in maniera così virulenta. Piove sui titoli dei giornali, piove riguardo l'ultimo pronunciamento elettorale, l'Italia alle urne ha fatto piovere. Per qualcuno piove, per qualcuno è tempesta, per qualcuno è una pioggerella leggera, primaverile, che dissimula probabilmente pensieri più foschi, più pesanti. Piove sulle nostre coscienze non sanno più dove appoggiarsi. Abbiamo iniziato una fine settimana fatta di sdegno, fatta di rivolta, fatta di discesa in piazza, fatta di notti con le candele in mano, e oggi ci consumiamo di fronte al fotogramma di un povero disgraziato che non sa bene chi sia, il famoso mostro, il claudicante, colui con la mano morta, è colui che è esperto in elettronica, colui che ha fatto il gesto sconsiderato. E ha ucciso la bambina, che già su tutti i giornali, con le foto della prima comunione, già l'angelo che è volato in cielo. Su questo piove. Su quante delle vostre più profonde convinzioni sta piovendo? Quanto la pioggia sta trascinando via e sta sovrascrivendo tutto ciò che pensavate scritto con lettere di fuoco? 800 24 00 24. Oggi piove. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come ci viene. Sono tante maniere possibili di dare un senso al fatto che oggi piova. Voi pensate un attimo nei vostri pensieri, nelle vostre riflessioni sotto la pioggia, leggete giornali, siete impregnati e contaminati comunque da un clima generale, e cos'è che sta piovendo? Quali nuvole sono anticipatori di sensi futuri che portano questa pioggia? E soprattutto, perché cadiamo tutti dalle nuvole? Piove sui nostri volti, Silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Per quanti c'è stata una favola bella che ieri ha illuso e oggi continua a illudere? Su quale favola bella ha piovuto oggi e l'ha trascinata via? 800 24 00 24. Piove sui monti e sulle scale, su petali e parole, sul cuore mio che batte. Piove sui poveri soldati, sui campi abbandonati e sulla mia città. Piove. Alla luce delle suggestioni che vi sto suggerendo, provate a leggere anche il senso di queste canzoni, poi magari ve le farò risentire. Vorrei che queste fossero una sorta di emblemi, di slogan che manderò con ricorrenza durante la trasmissione, a seconda di quale senso voi attribuiate al fatto che piova oggi, che oggi piova e tutti caschiamo dalle nuvole. Ma piove, piove sul nostro amore. Qual è la bambina che salutiamo, che la pioggia porta via, che la pioggia ha lavato nel suo ricordo? Forse un'illusione, forse un'immagine di futuro radioso, o forse semplicemente per molti l'immagine di una serenità futura che non ci sarà più. Professor Gian Maria Fara, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Gian Maria Fara è presidente dell'Eurispes, che ha pubblicato, come da 30 anni fa, il rapporto Italia 2012. L'Eurispes, ricordo che è un importantissimo istituto di studi politici, economici e sociali, che appunto è presieduto dal professor Gian Maria Fara. È un ente che da 30 anni dà una fotografia del nostro paese, quindi diciamo una memoria storica di tutte le piogge che ci sono state in questi 30 anni, tutto ciò che ha fatto rifiorire la pioggia, tutto ciò che ha trascinato via la pioggia, quando la pioggia è diventata un temporale o molto di più, è diventato un nubifragio e ha lasciato soltanto macerie, quando la pioggia in certi anni ottimistici era semplicemente una maniera per cullare i pensieri. Professore, anche a lei la domanda. Oggi piove, ma perché gli italiani cascano dalle nuvole? Beh, oggi piove e gli italiani cascano dalle nuvole perché sono stati abituati nel corso di questi ultimi anni a rifiutare la realtà, a non prendere atto della realtà. Si sono affidati ad una realtà virtuale, ad una realtà imposta dai mezzi di comunicazione di massa. Gli italiani hanno nascosto la testa sotto la sabbia, come fanno gli struzzi. Quando ha aperto l'ombrello. Aiutati in questo da una classe dirigente generale che non è stata in grado nel corso di questi ultimi decenni di dare un progetto al paese, di proporre al paese una meta, degli obiettivi da condividere, sui quali impegnarsi. Andrebbe buono la vecchia antica massima un po' datata: piove, governo ladro. È sempre colpa della classe dirigente se piove. Questa mattina piove e noi cadiamo dalle nuvole, quindi è colpa del governo ladro. Vale ancora questa cosa? Ma certamente. Forse oggi non abbiamo un governo ladro, un governo sostanzialmente sobrio e forse anche inadeguato. Però che le responsabilità maggiori siano da attribuire alla classe dirigente non vi è dubbio. Devo però precisare che di solito noi tendiamo ad attribuire la responsabilità di tutti i mali che attraversano il nostro paese, che ci affliggono, alla classe politica. Io da anni preferisco riferirmi alla classe dirigente generale, di cui la classe politica è certamente espressione. La classe dirigente generale è fatta dalla politica, dall'economia, dal mondo della cultura, dal mondo dell'informazione. Facciamolo un'analisi. Io ho davanti una sintesi di quello che è il suo pensiero espresso nell'ultimo rapporto Rispes. Partiamo proprio dalla classe dirigente, da questa sorta di sistema quasi feudale, come lei lo descrive. È fatta la classe dirigente non soltanto dai politici, anzi ci siamo anche noi che facciamo informazione in mezzo, ma giustamente mi prendo il mio carico di responsabilità. Analizziamola, stratifichiamo. Intanto all'800240024 prego il pubblico di telefonare senza problemi, senza reticenze, senza porvi grossi problemi. Secondo voi di chi è colpa se piove e soprattutto perché caschiamo dalle nuvole? Lei la classe dirigente la divide in vari tronconi. La prima è quella appunto del coloro che creano il pensiero, creano l'opinione, gli illustri professori che pontificano con forti richiami all'etica e intanto pilotano concorsi e mandano in cattedra figli e nipoti. Questo è importante comunque come segmento della classe dirigente. Beh, questo è un piccolo scatto, una piccola foto della realtà. Come dicevo prima, l'errore che facciamo è quello di attribuire alla classe politica ogni responsabilità, mentre la responsabilità va certamente condivisa. Dobbiamo assumerci tutti noi la responsabilità del cattivo andamento e la cattiva gestione. Immaginiamo che noi dobbiamo in questo momento allucinare una sorta di idra con tante teste, un mostro mitologico. Ecco, una testa è la politica sicuramente, certo. Un'altra testa è, diciamo, coloro che dovrebbero essere la forza culturale, la crescita culturale. L'apparato culturale del paese. Che sono bloccati, immobilizzati, sembra quasi che il loro unico problema è assicurare un prospero futuro alla propria discendenza. È vero, perché ogni persona che conosce il mondo dell'università, il mondo dell'accademia, sa benissimo. Poi abbiamo avuto la dimostrazione pratica attraverso centinaia e centinaia di casi eclatanti che sono stati all'attenzione dell'opinione pubblica, hanno animato le cronache e il dibattito. Quindi quando si parla di crescita, parlarne soltanto in termini economici è limitato. La crescita dovrebbe avvenire anche nel campo dell'affrancamento da questa sorta di gioco alla cultura, alla crescita del pensiero, dell'immaginazione, della ricerca. E lì però è un po' meno evidente, quando le persone poi vanno alle urne, vanno, ha visto, un elettore su due non ha votato a quest'ultima elezione comunale, questo l'avete previsto? Sì, sì, l'avevamo previsto, noi segnaliamo questo pericolo, il progressivo distacco tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e politica, lo segnaliamo ormai da più di 10 anni. Quindi è 10 anni che voi avete previsto questa sorta di... Lanciamo continuamente segnali d'allarme. Uno dei problemi di questo paese che forse non è antisociologico, ma di sicuro è asociologico, nel senso che non ama le analisi, non ama sentirsi dire, o meglio, più che il paese, la classe dirigente del paese, non ama la complessità, non ama sentirsi raccontare la verità, preferisce affidarsi ai chierici, a coloro che sono sempre pronti a sostenere le tesi, le teorie. Infatti del un'altra potere. Testa di questa idra che stiamo descrivendo questa mattina è proprio il mondo della comunicazione, dell'informazione, che secondo lei riesce a condizionare in maniera importante quello che poi è il consenso, con l'opinione, o è semplicemente un apparato di mera promozione di chi in quel momento sembra avere in mano le leve del potere? Ma certamente quello che una volta veniva definito il quarto potere sembra rivelarsi in taluni passaggi come il primo potere, il vero potere, il potere di informare, il potere di far conoscere alle persone quello che accade, però anche il primo potere soggiace ai condizionamenti della politica, dell'economia, anche il primo potere ha dei proprietari ai quali rispondere. In questo momento esatto lei come vede il rapporto fra potere e informazione? Ieri mi ha fatto un po' specie vedere la conferenza stampa sugli episodi di Taranto con due ministri della Repubblica. A un certo punto uno di due ha detto: mi congratulo per la deontologia dei giornalisti che hanno pubblicato la foto del presunto assassino mostro di Taranto oscurando la faccia, avete fatto un atto di deontologia, invece che dire cialtroni ci avete messo in mezzo mettendo la foto su tutti i giornali di una persona che poi alla fine non si sa bene nemmeno chi sia chi non sia. Questa mattina il grande imbarazzo è che su Twitter era stato anticipato nome, cognome, domicilio, indirizzo di una persona che non sappiamo nulla ancora, ogni garanzia è caduta di fronte a l'euforia dell'uso dei nuovi mezzi di comunicazione. Guardi, questa sicuramente in questo caso si è trattato brindisi. In questo caso si è trattato certamente di una sorta di captatio benevolenza nei confronti dell'informazione, perché chi fa le indagini, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia sanno di dover avere con i media un rapporto stretto, molto spesso addirittura di dipendenza, ma che i nostri mezzi di comunicazione perdano colpi e abbiano molto da farsi perdonare è chiaro ed evidente. Io personalmente, io come istituto, vivo questo problema quotidianamente, lo vivo giorno per giorno, attraverso la difficoltà a far passare messaggi e una comunicazione responsabile, seria, che sia rispettosa della realtà, della verità. Molte volte ci piangiamo addosso che non ci sia libertà di stampa in Italia, e trovo che sia giusto, io trovo che libertà ci sia comunque, manca spirito critico nel valutare l'infinità di fonti possibili, secondo me. Beh, certo, forse i giornalisti negli ultimi anni si sono un po' seduti, non sono così interessati alla ricerca della verità come magari lo erano in passato. Io ho 60 anni, quindi ho un'altra memoria e un'altra esperienza. Lei nasce come giornalista? Io nasco come giornalista. Ho un'altra memoria e un'altra esperienza. Se ne andò dal Corriere della Sera un giorno e cambiò mestiere? Sì, esattamente, ero ragazzo. E perché se ne andò? Perché decisi di impegnarmi nel prepolitico, di ritornare, di lavorare sul fronte della ricerca sociale, perché mi rendevo conto che la deriva che stavano imboccando in quegli anni i giornali e il sistema dell'informazione era una deriva che non mi piaceva. La mia idea era invece quella, attraverso la ricerca sociale, di andare a scovare, a stanare la realtà lì dove si trovava, facendo un lavoro che ormai i giornalisti avevano deciso di non fare più. Adesso le sottoponiamo la nostra realtà, il nostro campione, che è il pubblico che ci chiama ogni giorno con affezione, con reazione e con costanza. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Perché piove oggi? Di chi è la colpa che piove? E perché caschiamo dalle nuvole? Perché piove oggi è semplice, è semplicemente perché ci sono tantissimi motivi per cui piove, però quello che mi disturba maggiormente è il fatto che io ho visto negli ultimi anni, io ho dei figli giovani, formarsi la convinzione, e questo succede negli ultimi 20 anni, prima in quella vituperata prima Repubblica non succedeva questo, prima c'era più valore al merito, oggi c'è la netta convinzione che la cosa più importante si rimpiangono sempre i morti, diceva povera, tanto una brava persona. Furbi, sia essere furbi, furbi, furbi, questa è la convinzione. Quindi la colpa della pioggia è di chi si crede furbo, di coloro che si ritengono furbi. Di coloro che hanno convinto i giovani di smettere di pensare al merito, di pensare solo esclusivamente ad essere furbi. Fermiamoci qua, intanto il professor Fara prende appunto. Alessio. Sì, buongiorno. Perché Nicoletti. Piove e perché caschiamo dalle nuvole? Più che piove, governo ladro, terremoto, governo ladro, visto che nella pianura padana ci sono attività di fracking legate all'estrazione di idrocarburi e in tutto il mondo dove sono state svolte sono stati causati terremoti tra il quinto e il sesto grado della scala. Sì, oggi è uscito sui giornali colpa delle trivelle. Sì, esattamente. Vabbè, questo, ci sono fondamenti scientifici, tecnici su questo, non lo so, ho letto con superficiale notizia, quindi hanno trovato una motivazione al terremoto, quindi, però scusi, e in Abruzzo per cosa è successo? Lì non scavavano. Beh, non vorrei essere un complottista, c'è il progetto ARP, però... Ah, vabbè, comunque questo, lei, secondo lei piove perché ci sono delle cose che non si dicono, che si muovono sotto, misteriose, ma sotto l'occhio di tutti, e quindi se si sapesse, se qualcuno dicesse queste cose, si capirebbe perché piove. Il complottismo. Fabrizio, sì, perché piove, perché cadiamo dalle nuvole? Beh, io ho sentito la poesia di Sergio Pinito, oltre la favola bella si è interrotta, non solo legata alle vicende di governi, io ho l'impressione o terremoti o fatti di terrorismo, come avviene. Io l'impressione che siamo in una fase, per una parola un po' complicata, di anomia, cioè di perdita di significato. Non la capisco proprio, cioè c'è una telefonata, comunque mi sembra di aver capito che il problema è che l'illusione per la favola bella è finita, siamo in una fase in cui sono cadute l'illusione. Professor Fara, vediamo questi tre atteggiamenti. Il primo ascoltatore ha detto è colpa di chi dice che bisogna essere furbi, non occorre più il merito. L'altro ascoltatore è c'è sempre qualcosa che non viene detto, quindi il complottismo, la seconda lettura, le sinarchie, i governi segreti. E il terzo dice ma perché non abbiamo più favole in cui illuderci. Beh, come ritrova questi tre punti nel suo osservatorio, nelle sue ricerche? Beh, per quanto riguarda la caduta del merito, mi pare che l'osservazione dell'ascoltatore sia assolutamente pertinente. Noi abbiamo insegnato ai nostri ragazzi in questi ultimi decenni che l'intelligenza, la capacità, l'impegno e il sacrificio erano cose tutto sommato non necessarie, si poteva raggiungere il successo diversamente. Non è tanto il marketing della paraculaggine. Il marketing della paraculaggine, la semplificazione e la proposta di modelli che hanno fatto scuola. Basta pensare alle trasmissioni televisive più in voga in questo e in altri momenti. Il messaggio che i mezzi di comunicazione di massa purtroppo lanciano e amplificano è quello che nasce proprio, professore, nasce prima il popolo dei telespettatori che altro non vuole che vedersi rappresentato in televisione o la televisione che li condiziona. Guardi, io su questo ho un atteggiamento molto chiaro. Io credo che i mezzi di comunicazione di massa debbano esercitare anche un ruolo pedagogico, non possono essere dei destrutturatori del senso. Purtroppo il ruolo che i mezzi di comunicazione di massa hanno avuto negli ma chi si prende decenni... chi si è più preso da Bernabé in poi nessuno si è più preso la briga di dire siamo noi che vi diciamo quale deve essere la strada, nessuno ha avuto più il coraggio di dire la mia verità te la racconto perché è questa. Ma probabilmente perché mancano i punti di riferimento, mancano anche quelle autorità cognitive che invece sono state presenti nei decenni passati. Ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. Forse chi fa informazione non è così capace di fare informazione come la generazione e le generazioni che hanno preceduto gli attuali operatori dell'informazione. Allora ci fermiamo soltanto un istante, diamo la linea all'informazione della borsa, continuiamo fra qualche minuto con il professor Gianmaria Fara, presidente dell'Urispes. Piove, perché piove e perché cadiamo dalle nuvole. Melog, realtà condivisa. Piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca, e pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene. Qualcuno mi sta segnalando, in Sicilia c'è un gran sole che spacca. Perché dite che piove in tutta Italia? Fortunati siciliani che da loro non piove, fortunati siciliani che non hanno nuvole sulla loro testa, felice, fortunati siciliani che non cadono dalle nuvole con il loro nuovo sindaco a Palermo. Fabrizio da Pescara, buongiorno. Perché piove? Perché cadiamo dalle nuvole? Buongiorno. Allora, io credo che piova per colpa del sistema monetario e del sistema bancario. Quindi è colpa delle banche, sì. Colpa delle banche, sì. Perché cadiamo dalle nuvole? Perché credo che nella Costituzione bisognerebbe aggiungere che l'Italia è una repubblica basata, questo negli ultimi anni, sull'ignoranza. Da quanto tempo siamo diventati ignoranti, secondo lei? Perché fanno di tutto. Sì, ma da quanto tempo siamo ignoranti? Dalla Seconda Guerra Mondiale, da quando ci fanno credere che esistono ancora i partiti. Tutta la Repubblica, allora. Dal 45 in poi siamo diventati ignoranti. Sì, e la cosa peggiora sempre di più. Allora stavamo meglio quando stavamo peggio, questa è la sintesi. No, si potrebbe stare, non lo so se stavamo meglio prima, io so che si potrebbe stare molto molto meglio, però ho la strana convinzione che ci siano dei ricchi, dei potenti, non so chi, che controllano comunque le sorti di un po' tutto il mondo. Una domanda. La grande sinarchia, i poteri occulti. Sì, sì, lei mi sa spiegare come ha fatto uno come Ronald Reagan a diventare presidente degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti. Perché apparteneva a qualche setta segreta, probabilmente. Non lo so, qualcuno forse faceva i comodi di qualcuno. Sono domande che io mi pongo. C'è sempre dei fondi di verità su queste cose, però. Anche perché non trovo risposte. È manualistica da libretti che si comprano alla stazione per fare un viaggio in treno. Non dobbiamo fermarci su questo. Invece, il professor Gianmaria Fara, presidente dell'URISPES, che è qui in studio con me, dice nel suo rapporto che in realtà le élite non sono peggiori della società civile. Questa è la rappresentazione più cruda probabilmente del fatto di perché caschiamo le nuvole. Ce lo spieghi un po' meglio, professore? Beh, insomma, si è fermata l'idea in questo paese nel corso degli anni che ci fosse una società buona e una classe dirigente cattiva. Il problema vero è che la classe dirigente è espressione della società, e la società non è migliore della propria classe dirigente. Questo è il dato di fondo. E ci si accorge di quanto sia vera questa affermazione se si pensa, per esempio, al grande problema del sommerso, dell'evasione fiscale. No, noi abbiamo diviso in queste ultime settimane, a seguito dell'attività, delle iniziative del governo, abbiamo diviso il paese in due blocchi. Da una parte quelli buoni, onesti, seri, che pagano le tasse. Sono quelli che non ne possono fare a meno. Sono quelli che non ne possono fare a meno. Chi ha la busta paga. E dall'altra gli evasori. Le cose non stanno esattamente così. Ci sono gli evasori e poi ci sono anche le persone oneste che pagano le tasse e che producono anch'esse sommerso e che vadano comunque direttamente o indirettamente il fisco. Basta pensare alla nostra esperienza quotidiana, basta pensare a quante volte nel corso della nostra settimana, della nostra quotidianità, ci siamo trovati di fronte alla necessità di pagare in nero la prestazione dell'idraulico, dell'imbianchino, del giardiniere o della badante. Il sommerso. O ci dicono: ho finito la carta, non posso stamparmi lo scontrino. Il sommerso è il prodotto di milioni e milioni di piccole operazioni quotidiane che sfuggono magari alla sensibilità. Tempo fa non vi hanno preso sul serio quando avete detto c'è un PIL sommerso spaventoso rispetto al PIL reale. Beh, noi lo diciamo da anni. Diciamo che il paese ha tre PIL: un PIL ufficiale che è di circa 1.600 miliardi di euro, un PIL sommerso che equivale ad un 35% circa di quello ufficiale, quindi altri 540 miliardi di euro, e un PIL criminale che supera abbondantemente i 200 miliardi di euro. Quindi questo è un paese all'interno del quale circola più denaro e più ricchezza di quanta ufficialmente non ne venga censita. In buona sostanza, noi avremmo, possederemmo la stessa ricchezza della Germania, o meglio avremmo... Ma dove la teniamo nascosta? Beh, non la teniamo nascosta, è di fronte agli occhi di tutti. Aveva ragione Berlusconi quando diceva: vedo i ristoranti pieni, siamo un paese ricco. No, non aveva ragione Berlusconi, perché Berlusconi tendeva a generalizzare, perché poi questa è una società fortemente contraddittoria, dove esistono forti concentrazioni di ricchezza, una cattiva redistribuzione della ricchezza, esistono fasce di povertà incredibili e dolorosamente presenti. Basti pensare al fatto che questo paese ha 8 milioni di poveri accertati e altre 8 milioni di persone che vivono appena al di sopra della soglia di povertà. Quindi sono fortissime contraddizioni che non ci consentono di sostenere l'idea di Berlusconi: siamo tutti ricchi, i ristoranti sono pieni, le agenzie di viaggio hanno tutto prenotato. Anche perché oggi vale un po' meno. La ricchezza c'è più ricchezza di quanta non se ne censisca ufficialmente, è solo è una ricchezza concentrata, è una ricchezza che non è distribuita. Sentiamo Matteo, buongiorno Matteo. Buongiorno. Matteo, perché piove? Di chi è la colpa che piove e perché caschiamo dalle nuvole? Perché piove, perché siamo vissuti per almeno 30 anni, non è corretto quello che dice il precedente ascoltatore, dal dopoguerra. Il dopoguerra c'è stato un periodo buono di crescita, eccetera. Io dico da almeno 30 anni siamo vissuti fra le nuvole, nelle illusioni che tutto va bene, eccetera. Siamo vissuti nella pretesa del diritto senza pensare ai doveri, siamo vissuti al di sopra delle nostre possibilità, e io oggi sono molto d'accordo con la politica del rigore. A volte si parla di Merkel, per esempio, rigore, rigore, rigore, non si sviluppa abbastanza questo discorso, perché secondo me è impossibile qualsiasi crescita senza il rigore. Questo è chiaro Vincenzo, fermiamoci qua. Matteo ha già parlato, lo ha Vincenzo, scusate, Vincenzo, ho fatto un'inversione di ruoli. Vincenzo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Perché cadiamo dalle nuvole? Di che colpa se piove? Per una causa immediata che è rappresentata dall'egoismo, a cui sono improntati quasi tutti i nostri comportamenti. Ognuno di noi predica bene ma razzola male, quindi pensa a coltivare il proprio orticello. Ma non ci può essere una legge che decide da oggi dovete diventare tutti generosi, o lo si è o non lo si è. Esatto, questa è la causa immediata. Questa causa immediata però è frutto di un'altra causa mediata, che è rappresentata dall'assenza di solidarietà nazionale. Perché se ci fosse, come accade in molti paesi, soprattutto del nord Europa, un senso civico sviluppato ed una solidarietà, si capirebbe che il bene comune dovrebbe prevalere su quello del singolo, perché in realtà è la causa proprio o delle categorie. Questa stortura, questa patologia dei nostri comportamenti, che deriva, ripeto, secondo me dall'Italia dei comuni, di cui noi oggi siamo ancora figli, la ritroviamo in tante fasce sociali, in tanti aspetti sociali. Basti pensare a quello che accade nel calcio, ma basti pensare anche a quello che accade nelle assemblee di condominio. Fermiamoci qua Vincenzo. Giorgio. Buongiorno, sono Giorgio. Perché piove? Di che colpa piove, che piove? E perché piove, cadiamo dalle nuvole? Ecco, secondo me piove perché ormai noi siamo pieni di ombrelli cinesi. È una battuta metaforica, diciamo, perché secondo me in tutti questi anni, e anche il suo ospite, bene, si è dato sempre addosso al commerciante, all'artigiano, e abbiamo... No, il mio ospite ha detto i commercianti e gli artigiani che evadono il fisco, non tutti in sì, genere. Sì, vabbè, ma però sa... non mi dica sono costretti a farlo, se no non vivono. Sì, no, però non voglio giustificare l'evasione, però questo sistema, che secondo me dura da troppo tempo, si è creato una contrapposizione, e cioè il lavoratore dipendente contro tutti gli altri e tutti gli altri contro i lavoratori dipendenti, capito? Perciò da qui nascono tutte le incomprensioni, tutte fermiamoci un attimo. Discorsi da bar. Mi sembra molto chiaro, abbiamo tre punti. Se ha notato il professor Fare, tre punti, diamo velocemente le informazioni del traffico, poi risponderà a quelle che sono state le vostre ipotesi di perché piova e perché cadiamo dalle nuvole. Melog, la realtà condivisa. Piove sui nostri volti, Silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella. sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione. Oh. Questo era naturalmente Carmelo Bene che recitava La pioggia del Pineto, del cui passaggio fondamentale in questa struggente nostalgia d'amore è la favola bella che ieri ci illuse e oggi ci illude. Ma nelle illusioni si può vivere, per ciò che riguarda le vicende legate al sentimento, all'amore, allo struggente desiderio di una persona, ma non se si parla di un paese concreto. Ho qui in studio, ricordo, il professor Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, che ha appena pubblicato il rapporto 2012, come fa da 30 anni, questo istituto di ricerca, a cui sottopongo le ultime tre punti di vista dei nostri ascoltatori alla domanda che abbiamo posto: perché piova, di chi è colpa della pioggia e soprattutto perché noi cadiamo sempre dalle nuvole. Un ascoltatore ha detto che manca la solidarietà e quindi il vero senso della pioggia è la solidarietà. Un altro pone delle date rispetto all'inizio della stagione delle piogge, quindi dovremmo sapere quando è iniziata la stagione delle piogge. E poi la difesa della categoria, come se in Italia ci fossero categorie contrapposte. Lei nell'Idra ha più teste che determina la casta dirigente, mette anche sindacati, poi mette tutti, mette anche quelli che devono rappresentare poi gli interessi delle categorie. Beh, certamente tutti quelli che hanno responsabilità evidenti, il cui lavoro, il cui impegno può essere anche di esempio per i cittadini. Quindi quando parliamo di classe dirigente generale, ritorniamo al discorso dal quale siamo partiti, pensiamo ai professori, ai ricercatori, perché no, ai giornalisti, agli imprenditori, ai politici, ai grandi burocrati, a tutti quelli che costituiscono l'ossatura dell'apparato dirigente del sugli del ombrelli paese. Cinesi? Ma sugli ombrelli la leghiamo alla solidarietà. Noi siamo in questo eterno precipizio: una parte ci tira la solidarietà, il riconoscimento, d'altra parte ci rendiamo conto che qualcuno si sta approfittando anche del nostro essere solidali. Ma questo è sempre esistito e sempre esisterà. Io ho avuto la riprova nel corso di 30 anni di osservazione della vita economica, politica e sociale del paese, che questo sia un paese invece fortemente solidale. È un paese che riesce a manifestare il meglio di sé nei momenti di grande difficoltà. Sarebbe ingiusto descrivere un paese non solidale, un paese che non riesce a farsi carico dei problemi. Naturalmente dobbiamo fare una media comune, non dobbiamo fermarci agli episodi limite. Sì, però la dichiarazione del politico, l'atto di intolleranza sono... Sì, però in genere si può affermare serenamente che questo è un paese fortemente solidale, è un paese anche generoso, è un paese attento alle fragilità sociali, non solo nazionali, ma anche internazionali. È un paese che riesce a mobilitarsi ed è pronto ad aiutare chiunque abbia in quel momento particolare bisogno. Quindi non mi sentirei di rivolgere questa accusa che sarebbe ingenerosa. Sì, la frase che più si legge nei social network che oggi sono la lettura più bieca di quello che è la nostra realtà, perché è chiaro, è un luogo di rappresentazione, di pantomima, e che tutti dicono: ah, povera Italia, qualunque cosa, il cagnolino abbandonato per strada, macilento e pulcioso, ah, povera Italia, lo saremmo finiti, allo stesso livello del padre che si butta con i due figli alla finestra. Sì, sì, ma voglio dire, in questo c'è anche una responsabilità dei media, che tendono ad esaltare gli aspetti più deteriori, poi naturalmente... E si gioca sulla passione. Si gioca spesso anche sull'orrore, sulla provocazione, sull'innalzamento continuo. Esiste un livello di rappresentazione nel nostro paese in cui ci crogioliamo un po' tutti, oltre il paese reale, il paese rappresentato in tutti i suoi aspetti. Sì, certamente, questo è chiaro ed evidente, e qualche volta ci piace anche essere rappresentati così come non siamo. Ma la cosa più bella del mondo, siamo, è chiaro, noi tutti vorremmo essere quello che noi siamo, che non quello che noi siamo, ma quello che vorremmo essere. Loredana. Sì, buongiorno. Perché lei cade dalle nuvole? Cadiamo dalle nuvole e piove perché è vero che la classe dirigente è un po' lo specchio della società, del momento, ma è sempre stato così. Quello che invece manca oggi davvero tanto è la minoranza, quella eletta, quella intellettuale geniale che cambia l'elite. Il mondo. Esatto. L'elite, lei invoca giustamente l'elite, il governo dei migliori, come deve essere, così. Sì, sì, ma soprattutto una capacità di elaborare che passi attraverso degli elementi particolari. Quello che abbiamo detto però all'inizio della trasmissione è che il pensiero elaborato è un pensiero fastidioso da rappresentare, deve essere tutto semplificato. Quindi se l'elite è un elaboratore, nessuno vuole elaborazioni, tutti vogliono semplificazioni. Paolo. Buongiorno. La domanda per qual motivo piove è il fatto, secondo me, perché siamo degli ombrelli. In effetti ci siamo sempre posti degli ombrelli. Vediamo la pioggia, non la vediamo sotto il punto di vista negativo, di una catastrofe, di una precipitazione di eventi negativi. Ci siamo sempre posti, per tutto il nostro periodo storico, almeno l'ultimo, delle protezioni nei confronti di influenze anche positive che avvenivano fuori dal nostro piccolo mondo nazionale. Nel frattempo è evoluta la politica, è evoluta... Quindi siamo come quelli che escono con l'ombrello anche se c'è il sole, perché non si sa mai. Secondo me sì, secondo me un po' di pioggia, se l'avessimo presa prima, se l'avessimo saputa anche sfruttare meglio prima, ci avrebbe cambiato. Invece siamo praticamente quello che si dice, una doppia velocità. Le fornisco un aneddoto personale. Questa mattina uscivo dalla metropolitana Piazza della Repubblica, mi sono accorto che pioveva. Ero uscito da casa con i vestimenti leggeri perché a casa mia c'era il sole. C'era il solito indiano che vendeva gli ombrelli, ero tentato di comprarlo, ma non per non buttare 5 euro, ho detto no, vado a piedi. Ho affrontato la pioggia a piedi e non ne sono per niente pentito. Professor Fara, queste ultime due letture, la signora che dice che in realtà sì, è vero che però un'elite sarebbe meglio, qualcuno che no, ci rappresenta in maniera... Non mi pare che la signora dica questo, non mi pare che la signora auspichi il governo dei migliori. La signora pone una domanda: dove sono le nostre elite, dove sono le nostre teste pensanti, cosa fanno i nostri intellettuali? La risposta è chiara, i nostri intellettuali sono... seduti alla corte dei poteri più o meno forti, cioè il ruolo dell'intellettuale così come... Non sono più tali però, esattamente, non sono così più il ruolo degli intellettuali così come viene descritto non esiste più. L'intellettuale che si oppone al potere è una figura ormai scomparsa. O semplicemente un pensiero originale. Sì, un pensiero originale. Che non richieda il consenso. Sì, certo, ma anche esprimere qualche idea. Il savianismo è la forma di intellettualismo più alta in questo momento. Sì, certamente. Questo paese non ha mai amato gli intellettuali veri. Diciamo, quelli veri sono sempre andati al confine. Li ha sempre tenuti in disparte. Ed un paese che, come io dico, nel rapporto Italia è fortemente caratterizzato da una tradizione feudale, l'idea della libertà dell'intellettuale, della capacità di provocazione dell'intellettuale, del ruolo dell'intellettuale è assolutamente distante dalla prassi del potere, della prassi. L'ultima battuta sul fatto che molti di noi portano l'ombrello temendo che piova, anche se poi non piove realmente. Ma un po' di previdenza non è poi male, insomma, si può anche portare l'ombrello sperando che non piova, insomma, perché no? Grazie professor Gianmaria Fara, presidente Lurispes, grazie a quanti ci hanno detto questa mattina perché cadiamo dalle nuvole e questo ci eviterà in futuro di farci male quando cadiamo. A domani.